Ah, adesso ora registra, sì. Sì. Bene. Dai. Beh, benvenuto, bentornato. Grazie, grazie. Come è andata? L'udienza è andata bene, c'è stata una decisione positiva. E i giudici francesi hanno rifiutato l'estradizione, oltretutto dando una motivazione molto forte, ovvero hanno citato gli articoli 3 e 6 della Carta dei diritti umani. E adesso non mi ricordo esattamente come si chiama. È una decisione forte perché, oltre a riconoscere il fatto che io possa essere in pericolo nelle prigioni ungheresi, anche come oppositore politico, in quanto antifascista, è stato anche riconosciuto pienamente il problema di un processo non equo. Da parte del sistema giudiziario ungherese, cosa che tra l'altro non è stata riconosciuta dal Tribunale di Milano al compagno Gabriele Marchesi. E quindi questa è stata una decisione ancora più forte rispetto a quella del Tribunale di Milano. E io personalmente spero, come anche tutti gli altri compagni e compagne francesi e italiane, spero di poterlo dire a nome di tutti e tutte, che queste due decisioni spero possano essere di grande influenza per gli altri compagni italiani e italiane come Ilaria Salis, ma anche come tutti i compagni e le compagne tedesche che sono ricercate e altre imprigionate nelle prigioni tedesche. Quindi continueremo ovviamente continueremo a lottare contro il cosiddetto complesso Budapest e speriamo che queste due decisioni portino ancora più solidità nella nostra lotta per evitare l'estradizione di tutti e tutte le compagnie antifasciste in tutta Europa. Quindi sì, decisamente positiva per la mia persona chiaramente, ma anche speriamo questo possa essere positivo per tutti e tutte. E quindi sì, mi sento bene, oggi è stata una vittoria, quindi festeggiamo, ci rilassiamo per oggi, ma domani torneremo a lottare e a ricordare ancora tutte le altre compagne e compagne, certamente. Faccio una domanda, tipo cosa fare nei prossimi giorni, ma che così va bene così. Okay. Come? Cosa farai nei prossimi giorni? Ah, cosa farò nei prossimi giorni? Ah, non lo so, comunque continuerò a stare assieme ai compagni e compagne parigine, in particolare il Comitato per la mia liberazione, che ha fatto un grandissimo lavoro, ha contattato varie agenti dell'opinione pubblica, varie agenti anche del mondo politico di sinistra francese, che ha dato comunque il suo aiuto. Ci sono stati tantissimi giornalisti che si sono interessati sinceramente al mio e al nostro caso, c'è chi ha scritto degli articoli molto, molto incidenti e tantissime persone che hanno firmato addirittura una petizione per la mia liberazione, cosa che non avrei mai pensato onestamente. Quindi c'è stato dietro un grande lavoro da parte delle compagne e compagni si vede che... Diverse serate, diverso entusiasmo, posso confermare. Certo, posso dirtelo perché c'eravamo, certo, è stato simpatico. Sì, mi è stato raccontato come qui a Montreux al Parole Errante l'evento di circa due o tre mesi fa sì. Ci sono state tantissime persone, mi è stato fatto notare, visto le foto, sono molto contento. Si vede che il movimento antifascista non è morto, anzi siamo siamo ancora tutti molto attivi, attive, e speriamo di continuare così, perché c'è tanta strada da fare, c'è tanto lavoro da fare, in particolare in questo momento dove il fascismo continua, il neofascismo continua ad avanzare in tutta Europa e anche in altre parti del mondo. Non passeranno, dai. Non passeranno, chiaro.